governo si è indebolito molto sul piano politico e ha delle lotte interne violentissime che dividono quelli che sono gli assi portanti del governo, in primo luogo il Premier e il Ministro molto forte, molto potente dell'economia. Quindi c'è una debolezza di fondo che non si era mai registrata in questi anni. Secondo, esiste una scarsa credibilità che questo governo politico sia in grado, poiché proietta il grosso delle misure e delle decisioni sul 2013-2014, di arrivarci, poiché siamo nel pieno della tempesta a metà 2011, ai mercati, concetto che chi ci ascolta sa bene interpretare nei suoi aspetti di oggettività per un verso e di scommessa per il guadagno per l'altro, ai mercati questo non convince e dunque rappresenta una ghiotta occasione per fare soldi sulle criticità dell'Italia. Terzo, è una manovra che viene soprattutto ritagliata su aumenti di tasse e di prelievi e alcuni tagli di spesa, ma che manca drammaticamente dell'accento sulla crescita. Se noi consideriamo che il problema numero uno del nostro paese, che è cresciuto dello 0,2% negli ultimi 10 anni, no? E che oggi, se noi non torniamo a crescere del 2%, difficilmente troviamo la capacità di finanziare tutto ciò che ci attende per riportare il debito pubblico italiano dal 120% del PIL al 60% atteso e richiesto a livello europeo, ecco le condizioni e la difficoltà qui enorme.